Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Stiamo trasmettendo oggi da Capri, dove ha aperto i lavori da 2 giorni, come ogni anno, dei giovani imprenditori e di Confindustria. E il tema di oggi, già lo abbiamo anticipato ieri con la Presidente dei Giovani, Federica Guidi, il tema di oggi e di domani è il Mediterraneo, dall'Europa al Golfo, la rotta verso nuovi orizzonti, orizzonti in primo luogo commerciali ed interscambio, export e import, in un'area che a seconda delle stime vale comunque intorno ai 40 miliardi di euro e ha avuto alti tassi di crescita, non solo Turchia ma anche Marocco, Egitto, Tunisia e poi chiaramente il Medio Oriente come orizzonte più allargato. Tra l'altro, ma poi ne parleremo anche brevemente, l'Italia è diventata il primo partner commerciale per l'area del Maghreb, superando la Francia che era la storica, diciamo, colonizzatrice dell'area del Maghreb. L'Italia ha superato la Francia quanto a interscambio commerciale, siamo il primo partner in assoluto. Detto questo, è chiaro che si parlerà molto anche di attualità. In serata è previsto l'intervento del ministro Maroni qui da Capri, domani il presidente della Camera Gianfranco Fini, il ministro dell'Economia Giulio Tremonti e poi chiuderà i lavori la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Si è parlato comunque di attualità anche oggi a margine di vari interventi, soprattutto l'uscita da questa crisi dopo le dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio Berlusconi nel corso della giornata mondiale del risparmio, ma anche e soprattutto l'IRAP. Ed IRAP parleremo anche noi, c'è una proposta, o meglio una valutazione formulata ieri su Sole 24 Ore dall'economista Perotti, che oggi praticamente viene ripresa anche da vari commenti. Roberto Perotti aveva detto: attenzione, qui si parla sempre di ridurre le tasse, ma mai di ridurre la spesa pubblica, che invece continua a aumentare, e se complessivamente il debito e la spesa pubblica non è aumentata tantissimo, è perché la spesa per interessi, cioè quello che paghiamo come interessi sul nostro debito, si è abbassata, visto che i tassi di interesse sono ai minimi storici. Ma la spesa corrente per la pubblica amministrazione, governi di centrosinistra, governi di centrodestra, continua ad aumentare in maniera costante di quasi 2 punti percentuali di PIL, che a spanne vogliono dire 28 miliardi di euro in più all'anno. Questo per stare ai numeri. Gli altri numeri che vi sto per dare sono invece pesanti, sono quelli della borsa. Allora, stanno recuperando qualcosa le borse europee, perché Milano è arrivata a perdere il 3% oggi e sta perdendo adesso il 2,40%, una correzione di almeno 0,5 punto percentuale, che vale anche per Parigi, -2,1, Francoforte -2,4, Londra -1,6, l'America perde l'1,3%. Parleremo anche dopo di borsa, perché insomma ieri si commentava come mai alcuni titoli che avevano perso il 5% il giorno prima guadagnassero il 5% il giorno dopo in assenza di notizie. Oggi siamo allo stesso copione: titoli che ieri avevano guadagnato il 5% e l'avevano perso il giorno prima, oggi lo riperdono. Penso per esempio a un titolo come Polare di Milano -4%, Fiat -3,4%, Impregilo -4,60%, Exor -4,6, Popolare di Milano -4%, Autogrill -4% e Buzzi Unicem anch'essa -4%, come Banco Popolare appunto e Lottomatica. E i peggiori in assoluto è Tiscali oggi -21%, e molto male anche Seat Pagine Gialle -5,6%, anch'essa in rialzo ieri. Risanamento guadagna il 9,3%. Sono arrivati ieri molti messaggi al 349 238 6666, su cos'è questa crisi che si sente solo in chi lavora, non la sentono le banche. Ieri Deutsche Bank è uscita con utili triplicati come le banche americane, non la sente la borsa che, come ricordava il ministro Tremonti ieri, continua a operare con i derivati e facendo aumentare il valore di borsa senza che vi sia nessuna corrispondenza nell'economia reale. Insomma, torniamo al tema di che cosa sia questa crisi. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Eh sì, ci voleva proprio, secondo noi, Ettore Petrolini, 1934, la crisi allora era quella del 29, ma il tema, già una volta ve l'abbiamo fatto sentire, era lo stesso. Che cos'è questa crisi, visto che le banche non la vivono più, gli occupati, le imprese sì, la borsa fa quello che gli pare senza, diciamo, avere una grossa razionalità. Noi andiamo avanti invece, anche perché di derivati e quindi strumenti assolutamente a rischio e che hanno generato questa crisi parleremo più avanti, perché sappiamo che i derivati, con un atto di grande lungimiranza, se li sono comprati a man bassa negli anni scorsi i nostri amministratori locali. Le regioni in testa sono Lombardia e Campania, il numero uno, ma anche le altre regioni hanno investito a lungo e in maniera massiccia sui derivati, un po' da apprendisti stregone, perché se non hanno capito bene il funzionamento e i rischi a Wall Street, senza offesa per nessuno, figuriamoci nei nostri palazzi regionali. Vabbè, altre notizie in breve, fermo restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666, il petrolio sotto i 79 dollari al barile, però sempre molto alto, e l'Ucraina invece, per quello che riguarda il gas, di nuovo in ritardo e in difficoltà con i pagamenti a Mosca, lo ha sostenuto lo stesso presidente russo Vladimir Putin. Nel frattempo, sempre in tema di energia, anche AGIP ha rialzato il prezzo della benzina, è 1,33 euro, e questo per quello che riguarda un rialzo già iniziato ieri con la Shell, e oggi oltre all'AGIP anche Esso e Kuwait hanno alzato i prezzi della benzina. Alcune trimestrali, sempre in tema di energia, dopo quella di ieri dell'Eni, che ha visto un calo dell'utile netto del 57%, in linea, devo dire, con tutti i concorrenti, ExxonMobil da un lato, ma anche la Shell dall'altro, cali forti negli utili perché il prezzo del petrolio è molto più basso rispetto a un anno fa, e per cui utile dell'Eni che scende 1.240 milioni, ma comunque è un utile soddisfacente secondo il numero uno dell'Eni, Paolo Scaroni. E oggi è uscita la trimestrale del gruppo Edison, e anche qui utile in calo, ma non in calo così forte, meno 7%, i ricavi meno 9,6%. La banca centrale giapponese sta fiutando l'aria per avviare la propria exit strategy, cioè l'uscita da questa crisi, che poi vuol dire, tradotto in soldoni, tornare a rialzare i tassi di interesse, tornare a stringere su un eccesso di liquidità, tornare a chiedere ai gruppi aiutati, banche in primo luogo, di ridare i soldi allo Stato. Ebbene, la banca centrale giapponese ha lasciato invariati i tassi fermi meno 0,1%, però ha annunciato che a dicembre metterà fine ad alcuni provvedimenti straordinari adottati per garantire la liquidità del sistema un anno fa, quando la situazione era veramente critica. Buono l'indice invece che arriva da Chicago su responsabili degli acquisti, un indice molto importante in America, è balzato a 54,2 punti contro i 46 punti di settembre, ma a raffreddare le speranze di crisi è tornato un nostro personaggio conosciuto, e mi riferisco al presidente, al direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, il quale oggi ha detto, intervenendo al Festival Internazionale del Lavoro a Rocca di Papa, vicino a Roma: attenzione, la disoccupazione salirà ancora per un anno. Potremmo dichiarare vinta questa crisi solo dopo la discesa della disoccupazione, e la domanda privata è ancora debole, quindi c'è il rischio di un effetto in questa ripresa economica a W, che è quello che nessuno vorrebbe vedere, cioè dopo essere scesi si ritorna un po' su e poi si ritorna giù e un po' su. E allora oggi in finale di settimana, di nuovo, perché mi sembra che sia la seconda volta che se lo becca, il direttore generale del Fondo Monetario vince il premio dell'animale nostro non preferito ma purtroppo più frequente. Allora, questo per quello che riguarda il gufo che abbiamo attribuito a Dominique Strauss-Kahn. Oggi andiamo avanti alla disoccupazione e qui arriviamo invece a temi più seri. La disoccupazione, non che non sia serio quello che dice Strauss-Kahn, ma insomma continuare a fare previsioni così, ipotizzando scenari negativi, non capisco dove voglia portare. Comunque la disoccupazione europea è salita nel mese di settembre al 9,7% del totale. È un dato record da quando esiste la serie statistica europea, cioè da gennaio del 1999, con un'inflazione ancora negativa in Europa, meno 0,1%. Ne parleremo nella seconda ora del programma, perché oggi c'è stato il dato anche sull'inflazione italiana, che a ottobre invece è tornata leggermente a crescere, più 0,1% mese su mese, più 0,3% invece rispetto a un anno fa. Cioè i prezzi a ottobre del 2009 sono aumentati rispetto a ottobre del 2008 dello 0,3%. Vedo dei messaggi sui derivati degli enti locali, ne parleremo fra mezz'ora. Attenzione, la Banca d'Italia ha denunciato oggi un aumento dei derivati in tutti gli enti locali negli ultimi 6 mesi, il 9,5% in più, e tra l'altro il criterio è leggermente cambiato, però insomma stiamo parlando di un'esposizione alta negli enti locali italiani. Adesso però partiamo con il primo tema, e quindi da un lato l'interscambio commerciale tra Italia e Mediterraneo, ma poi anche tutte le dichiarazioni a margine che sono arrivate qui dalla prima giunta dei lavori a Capri per il 24esimo convegno dei giovani imprenditori. Il Mediterraneo, dunque. Dicevo dell'area del Mediterraneo, che è diventata dopo la Germania il secondo nostro perimetro quanto esportazioni, la seconda area geografica per esportazioni, a pari metro con la Francia. Cioè per noi il Mediterraneo vale quanto esportiamo in Francia, e stiamo parlando dell'11% di tutte le vendite che l'Italia riesce a fare all'estero. Strettissimi rapporti con i paesi del Mediterraneo, come ci ricorda questa scheda. Per gli antichi romani era Mare Nostrum. Secoli dopo, il Mediterraneo è ancora un'area strategica per le imprese italiane. I paesi della sponda sud, Algeria, Marocco, Tunisia, Libia ed Egitto, oltre a grandi potenzialità economiche, sono, a differenza dell'estremo oriente, facilmente raggiungibili. Fondamentali serbatoi di energia, Algeria e Libia su tutti per il gas, le economie dell'area sud del Mediterraneo negli ultimi 2 anni sono cresciute del 6%, un passo quasi da tigri asiatiche. Forti i rapporti economici che abbiamo tessuto con i paesi del Maghreb. Nel 2008 abbiamo scavalcato la Francia, diventando il loro primo partner commerciale. Affari, oltre ad un'amicizia ritrovata, con la Libia, dove contiamo circa 70 imprese. E saranno proprio le industrie italiane a realizzare un parco industriale a 200 km da Tripoli, per il quale sono stanziati 1,6 miliardi di euro. Vantaggi di tipo fiscale per le aziende che si insedieranno nel parco, compresa una zona franca della durata di 5 anni. Di più lungo corso sono invece molte delle 9 zone franche in Egitto, con lo scopo di facilitare lo sviluppo di distretti industriali da parte del settore privato. Massiccia è la presenza italiana in Tunisia. Quasi 700 nostre aziende beneficiano di un costo del lavoro inferiore a quello dell'Est Europa e bassi costi di trasporto. Circa 200, invece, le imprese italiane in Algeria, dove nel 2008 abbiamo investito 8 miliardi di euro. Caccia di opportunità anche in Marocco, dove il costo della manodopera è in media pari a un nono dei salari europei. Spingendo più in là lo sguardo, la Turchia. L'Italia, solo nei primi 2 mesi dell'anno, ha investito il 50% in più dell'anno prima Inoltre, il 40% degli appalti pubblici destinato a imprese straniere è finito a ditte italiane. E la Turchia è il ponte ideale verso i paesi del Golfo, con cui abbiamo stretti rapporti sia sul fronte energetico che commerciale. Negli ultimi 2 anni il nostro export è cresciuto di quasi il 50%. Nel 2008 l'interscambio commerciale è stato di 16,5 miliardi di euro, con un saldo positivo, per noi, di 6,5 miliardi. E questo è il dato complessivo. Poi, secondo calcoli fatti da Sole 24 Ore, le sole infrastrutture in via di costruzione nell'area del Mediterraneo valgono qualcosa come 40 miliardi di euro. Un calcolo da cui volutamente è esclusa la Libia, perché la Libia, che come ricordava la scheda, ha già un accordo con l'Italia per un'area, diciamo, senza tasse, free tax. La Libia realizzerà infrastrutture per 150 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Questa è la cifra già stanziata, chiaramente grazie ai soldi del proveniente del petrolio. Ecco perché la presidente di Confindustria Federica Guidi ha chiesto di puntare sul Mediterraneo, che diventi un grande mercato senza dazi né barriere, ha detto un grande souk al quale tutti possono portare la propria bancarella e la propria merce. E questo anche per aumentare la diversificazione del nostro export. Certo che in questo periodo non si poteva non parlare anche di IRAP da un lato e di stato della crisi dall'altro, ed è su questo che la Federica Guidi, la Presidente dei Giovani Industriali, è stata raggiunta dal nostro Vincenzo Miglietta poco fa. Queste sono scelte che deve fare il governo italiano, mi pare che la decisione. Queste sono scelte che deve. Scusate, c'è un errore tecnico, adesso vi faremo sentire, chiaramente questo è il commissario europeo Tajani, la Presidente dei Giovani Industriali, Federica Guidi, grazie. È evidente che è una preoccupazione per tutti, quindi lo è per la politica, lo è naturalmente anche per il mondo dell'impresa. È chiaro che finché purtroppo non riusciremo a consolidare una vera ripresa, qualche coda sul fronte dell'occupazione probabilmente ci sarà. Gli imprenditori hanno fatto di tutto, continueranno a farlo. È chiaro che la tutela dell'occupazione per le nostre imprese è fondamentale, quindi cercheremo, come abbiamo fatto fino ad oggi, di fare di tutto. Dopodiché è evidente che ancora abbiamo davanti un anno difficile, quindi l'unica vera cosa che potrebbe naturalmente servire è una ripresa reale dei consumi, una ripresa reale dell'economia. Beh, noi abbiamo iniziato a parlare di IRAP già a giugno a Santa Margherita, in realtà se ne parla da tanti anni, naturalmente non era una tesi particolarmente originale la nostra. Tutto quello che può aiutare ad abbassare la pressione fiscale in questo paese è naturalmente utile. Certo, bisogna, e credo che la politica di rigore del ministro Tremonti comunque sia stata in qualche modo condivisibile, ecco, in un momento di crisi. Certo, bisogna forse guardare alla spesa pubblica improduttiva, ecco, bisogna cercare di recuperare risorse da lì per finalmente forse iniziare a impostare un piano di abbassamento della pressione fiscale. Così appunto la Presidente del Giovani Industriali Federica Guidi sui temi legati all'attualità, IRAP da un lato, disoccupazione e crisi, stato della crisi dall'altro. Su questo è intervenuto anche il commissario europeo Tajani, e quindi adesso possiamo far sentire invece la valutazione di Tajani sulla proposta di taglio dell'IRAP. Queste sono scelte che deve fare il governo italiano, mi pare che la decisione vada in quella direzione, però ripeto, sono scelte che non è che noi come Commissione europea possiamo valutare prima o in base a dichiarazioni politiche fatte da esponenti di governo o dello stesso Presidente del Consiglio. Quando ci saranno delle decisioni, valuteremo se sono in sintonia con la normativa comunitaria, ma mi pare che l'Italia ha sempre cercato, anche perché ha sempre studiato insieme alla Commissione europea tanti provvedimenti da prendere, adotterà scelte in perfetta sintonia con la politica comunitaria. Così il commissario europeo dei trasporti Antonio Tajani. E allora parliamo di tasse e di IRAP, ma anche di spesa pubblica, e lo facciamo, come annunciato, con chi ha innescato un dibattito su questo sul Sole 24 Ore di ieri, e mi riferisco all'economista Roberto Perotti, già nostro ospite altre volte. Professor Perotti, buonasera. Buonasera. Allora, lei ha detto in sostanza, se però glielo faccio dire in maniera anche estesa, che va bene parlare di tasse, lei tra l'altro insegna macroeconomia alla Bocconi ed è editorialista del Sole 24 Ore, va bene parlare di riduzione fiscale, però Non si può, se ho ben capito il suo messaggio, in questo paese continuare a chiedere la riduzione di tasse senza mai indicare una riduzione della spesa pubblica. E anche su questo ci sono un po' di luoghi comuni. Prima domanda, la spesa pubblica italiana in questi ultimi anni è stata contenuta o è aumentata? In realtà la spesa pubblica totale in percentuale del PIL è rimasta stazionaria, aumentata di circa un punto percentuale del PIL dal 2000, però ha beneficiato molto della diminuzione della spesa per interessi e quindi la spesa non per interessi è aumentata di circa 2-3 punti percentuali. 2-3 punti percentuali in tutto o all'anno? No, in tutto rispetto al 2000. Per cui noi stiamo spendendo alla fine diciamo 2,5% fa più o meno 14 miliardi un punto di PIL, siamo sui 35-40 miliardi di euro in più di spesa pubblica senza contare quella per interessi che appunto si è avvantaggiata dei bassi tassi della Banca Centrale Europea, un po' come insomma, se uno avesse una spesa familiare e un debito con la banca magari ti cala l'onere degli interessi, quindi sostanzialmente spendi quasi come prima, ma in realtà le tue spese correnti continuano a aumentare. E allora il suo ragionamento e la sua valutazione qual è, professor Perotti? Che sicuramente è un'ottima idea abbassare le tasse. L'Italia ha una pressione fiscale totale che è vicina al 50%, è circa il 45% del PIL, è una delle più alte del mondo. Quindi chiaramente abbassare le tasse sarebbero tutti contenti, compreso il governo ovviamente se lo potesse fare. Il problema è che abbassare le tasse non si può fare se prima o poi non si abbassano le spese, perché insomma prima o poi i conti bisogna farli quadrare. Quindi continuare a parlare di abbassare le tasse, però rifiutarsi di guardare l'altra faccia della medaglia che è abbassare la spesa, secondo me è pericoloso. Ecco, e qui veniamo al punto che già vedo suscita molti commenti al 349-238-6666. Noi abbiamo una spesa che vale praticamente circa una spesa pubblica che vale circa il 50% del nostro PIL. E voglio dire, è una cifra incredibile, visto che il nostro PIL sono 1.535 miliardi di euro. Stiamo parlando di una spesa pubblica che è intorno ai 700-750 miliardi di euro, è corretto professore? Ecco. Come mai secondo lei in una spesa di quasi 800 miliardi di euro non si riesce, io capisco tutto e anzi abbiamo sempre difeso la spesa per istruzione, per le forze dell'ordine, per la sicurezza, per il welfare che funziona, per la sanità, ci mancherebbe, lì bisognerebbe anche investire per la ricerca e sviluppo, per la formazione, però su 800 miliardi è possibile che non si riesca a trovare risparmi di 2 punti percentuali, cioè 2% vorrebbe dire 16 miliardi, con 16 miliardi potremmo fare taglio IRAP, taglio di buona parte dell'IRAP, insomma tutto un insieme di possibili misure. Sì, questo è un vecchio problema, anche prima ho sentito l'intervento di Federica Guidi che dice tagliamo le spese improduttive, tutti vogliono tagliare le spese improduttive e lasciare quelle produttive, cioè tagliare le spese tra virgolette cattive e lasciare quelle buone. Il problema è che ognuno ha la sua visione molto personale di cos'è la spesa cattiva e la spesa buona. C'è chi sostiene che gli investimenti in infrastrutture come il ponte sullo stretto siano una spesa buona, io personalmente ritengo che non sia affatto una spesa buona, ma ovviamente è tutto molto soggettivo. Quindi ci sono valutazioni molto soggettive, nessuno vuole toccare la spesa di cui beneficia, io personalmente vuole toccare la spesa pubblica di cui beneficiano gli altri, quindi è per quello che non è facile, non è facile nemmeno individuare quali sono le spese effettivamente improduttive, perché non basta avere l'etichetta investimento pubblico, investimento in infrastruttura per essere effettivamente produttivo. Molti sappiamo dal passato che molti investimenti in infrastrutture sono stati delle cattedrali nel deserto. E qui vorrei capire, dopo il metro pubblicità, per concludere con lei, se sia una strada da percorrersi con più efficacia la riduzione della spesa pubblica, anche perché come lei ricordava, la spesa pubblica improduttiva è sempre quella degli altri, no? Degli altri ministeri, degli altri enti. Però qui il rischio, l'abbiamo visto nel passato, è che si decida a un certo momento di ridurre tutta la spesa pubblica, non so, del 2%, Quindi senza sommersi e senza salvati, facendo indistintamente morti e feriti, senza andare a guardare l'amministrazione o il ministero che lavora bene, che anzi è sottodimensionato, con quelli che invece sprecano tanto e troppo, magari in consulenze. E allora vorrei capire se è più percorribile realisticamente una riduzione della spesa pubblica oppure una lotta all'evasione fiscale, fermo restando che tutti e due gli elementi vanno fatti, ma quale dei due potrebbe avere maggiore efficacia nel breve termine, perché i soldi servono subito e, per usare un'espressione di Andrea Marcegaglia di qualche mese fa, servono anche veri. Ci risentiamo dopo il metodo pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. ...17.39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, con Focus Economia qui da Capri, dove è iniziata la prima giornata di lavori del convegno annuale dei giovani imprenditori di Confindustria. Eravamo in collegamento con l'economista Roberto Perotti, che ha suscitato un dibattito anche alto, devo dire, dopo il suo articolo di ieri su Sole 24 Ore, la mitologia delle nostre tasse. Allora, professor Perotti, visto che i soldi servono a breve, subito e veri, perché qua è inutile poi pensare al 2012, come abbiamo visto con certe pianificazioni anche della legge finanziaria, pensiamo al 2010 e a fine 2009 e i problemi dell'occupazione, meglio trovarli dalla lotta fiscale, la lotta all'evasione, operazioni fiscali, o meglio andare a tagliare le voci della spesa pubblica? Prima di tutto non sono sicurissimo che i soldi servano, cioè se abbiamo già, come dicevamo prima, una spesa pubblica del 50% del PIL, non so bene se ne vogliamo ancora di più, ma assumendo che effettivamente servono, io non mi farei un po' più illusione né dal lato delle tasse né dal lato della spesa. In termini di evasione fiscale cioè, è inutile farsi illusione, non è che si può andare da una persona e dire dacci i soldi che non ci hai dato finora, i contenziosi durano anni e anni, e spesso si porta a casa un decimo di quello che si pensava di poter portare a casa, quindi non mi farei troppe illusioni che in tempi brevi si possa ottenere molto dall'evasione fiscale, anche perché, detto francamente, i periodi di recessione non sono i momenti migliori per iniziare la lotta all'evasione fiscale. E dal lato della spesa, anche qui non mi farei tante illusioni, come dicevo prima, ogni spesa ha la sua lobby e è molto difficile toccare, come sappiamo, ma soprattutto il grosso della spesa, che ci piaccia o no, sono le pensioni e i salari pubblici. E purtroppo, so che è impopolare questo, ma purtroppo se non si toccano queste due voci, il resto sono quasi bruscolini. E allora la vedo difficile, perché in un periodo di crisi un governo, diciamo, che vada a tagliare l'occupazione nel pubblico impiego significa perdere voti, in un periodo oggettivamente in cui è anche più difficile trovare il lavoro, con i tassi di disoccupazione che oggi ha raggiunto l'Europa, dato di oggi appunto record storico dal 99, quasi il 10% di disoccupati in Europa, e sul fronte fiscale anche lì non è molto popolare fare una vera lotta all'evasione che porti di fatto a far pagare più tasse a chi le evade in un momento di crisi economica. Visto che fra poco commenteremo la chiusura di borsa, tra l'altro vi anticipo che Milano ha chiuso sui minimi, meno 3,1%, è pesante oggi il calo, e vorrei da lei, se possibile, un elemento di, così, non dico di ottimismo, ma almeno di fiducia, visto che poi parleremo di una giornata non esaltante. Come se ne esce, professor Perotti? Perché lei nel suo articolo ricordava che è anche sbagliato immaginare che dal taglio delle tasse arrivi un rilancio dell'economia, la famosa curva di Laffer. Si diceva ai tempi di Reagan, tu tagli le tasse, la gente ha più soldi da spendere, li spende, e questo porta di fatto a recuperare sotto forma di IVA e di aumento del PIL quello che hai dato come taglio di tasse. Abbiamo visto che non funziona, non è così, soprattutto in periodi di crisi uno se ha più soldi in tasca li tiene sotto il materasso, non li va a spendere. Dove e come intervenire? Perché reperire risorse per abbassare le tasse, a mio avviso, sui lavoratori dipendenti, sulle imprese in difficoltà, è un'esigenza. Prego. Io non ho la sfera di cristallo, e data la performance degli economisti recenti mi scuserà se mi esimo dal fare previsioni, ma secondo me l'elemento di ottimismo è che tutto sommato non dipende da noi, perché quello che succede all'economia italiana dipende se riprende l'economia americana, essenzialmente cosa succede poi nel resto d'Europa, praticamente in Germania e in Cina. e quindi l'elemento di ottimismo è che noi non possiamo fare tanto, però non possiamo neanche sbagliare tanto, a meno che non facciamo delle politiche disastrose che non credo nessuno voglia fare. Se va bene l'economia, se migliora ancora l'economia americana, migliorerà anche quella italiana, se no ci aspetteranno 1, 2, 3 anni in cui dovremo navigare a vista. Tra l'altro su questo vedo molti messaggi che dicono tagliamo le spese della politica e gli stipendi dei parlamentari, sarebbe un atto diciamo simbolico molto forte, non so quanto incisivo sui conti pubblici, diverso il caso delle province, ma perché non si riescono a ridurre le province? Professor Perotti, lei che si è occupato anche di questo, cioè ogni governo, ogni coalizione politica quando è in campagna elettorale annuncia, l'ha fatto anche il centrodestra, taglieremo le province adesso aumentano pure. Sì, è proprio l'esempio classico, come dicevo prima, che ogni piccola spesa ha la sua lobby. Nel caso specifico è interessante perché è un caso proprio da studiare. La Lega, per esempio, si era sempre dichiarata contraria alle province, quando poi ha cominciato a vincere presidenze di provincia qui e lì, si è improvvisamente dichiarata contraria ad abolire le province. Quindi vede che al momento buono c'è sempre qualcuno che beneficia di una certa spesa pubblica e rende molto molto difficile ridurla. Vabbè, poi parleremo anche di cosa fanno i nostri enti locali, non ce l'ho con gli enti locali, però vedere che hanno investito in maniera così massiccia in strumenti derivati, che sarà il tema dopo i mercati, e adesso sono in difficoltà, avrebbe voglia anche di dire ma chi gliel'aveva chiesto di investire in prodotti così rischiosi. Sulle province sono d'accordo con lei. Diciamo è più facile fare così i fustigatori quando si è all'opposizione che non poi quando si è al governo, e vale per tutti i partiti purtroppo, ma insomma, da qualche parte sto toro andrà preso, perché il 50% del PIL con 3 punti percentuali di PIL negli ultimi anni di spesa in più, dopo che tutti dicono che bisogna tagliare la spesa pubblica amministrazione, vabbè, la dice lunga sulla differenza che c'è tra la retorica e i fatti. Grazie intanto a Roberto Perotti, adesso passiamo alla borsa. Brutta la chiusura oggi, meno 3,1% su Milano ai minimi, meno 2,90 a Parigi, meno 3,1 Francoforte, meno 2% Londra, meno 2% adesso l'America. Chiusura sui minimi per tutte le borse. E soprattutto dovuta anche a un peggioramento dell'andamento di Wall Street. Alcuni di voi continuano a chiederci al 349-238-6666 di poter risentire Petrolini con la canzone della crisi, casomai dopo la fine della prima ora, adesso facciamo i mercati, però potremmo traslare quella canzone in ma cos'è questa borsa, perché titoli che ieri avevano fatto più 5 oggi fanno meno 5, titoli che l'altro ieri avevano fatto meno 5 ieri hanno fatto più 5. Boh, non lo so se sia serio vedere un titolo che fa meno 5, più 5, meno 5. Paolo Paronetto, Radio Core, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Ci rigiochiamo all'otto fra un po' i numeri. Allora, Exor meno 5,2, Fondiaria meno 5,2, Banco Popolare meno 5%, Impregilo meno 4,80, come Autogrill meno 4,6, la Popolare di Milano meno 4,3, Buzzi Unicemi 4,2, lo perdono le generali ma anche Pirelli e UbiBanca. ST Microelectronics perde il 4, Eni il 3,81 come Bulgari, Telecom perde il 3,6 come Fiat e Luxottica, e anche l'Ottomatica il 3,5 il calo di Cire e Unipol e di Atlantia, il 3,3 quello di Unicredit, Tenaris e Finmeccanica, Campari e Italcementi meno 3% come il Monte dei Paschi. E qui mi fermo, prima il commento complessivo sulla giornata, poi dopo le informazioni per chi è in viaggio, invece i singoli titoli. Sì, come sottolineavi tu, dopo il rialzo di ieri, oggi e dopo una serie di dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti in chiaro scuro, non tutti negativi, ma comunque alcuni dettagli, in particolare le spese per i consumi, hanno colpito negativamente il mercato, oggi tutti i listini sono scesi, e proprio questo nervosismo, ampi rialzi ieri, oggi gli stessi titoli colpiti dalle prese di beneficio che oggi hanno registrato ampi cali, segnalano secondo gli operatori che il mercato ancora non è tornato alla normalità e permane un grande nervosismo, e quindi tutta la giornata è stata all'insegna di questo. È peggiorata dopo l'apertura di Wall Street, che adesso sta perdendo circa il 2%, e come ricordavi tu ha chiuso sui minimi di seduta. A dominare sono proprio i realizzi e i movimenti tecnici. Allora, adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi gli altri titoli. Vedo che alcuni ascoltatori scrivono anche un tema di tagli alla spesa pubblica improduttiva, che ne è stato delle comunità montane a livello del mare. È vero, erano tutti temi che andavano bene per il governo Prodi, come i costi della casta politica, le comunità montane, le province. Poi adesso non se ne parla più. E sì che, insomma, qualche soldo in più per far ripartire i consumi e l'economia servirebbe. Comunque, noi invece ci occupiamo di borsa dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Paolo Paronetto, potrebbe esserci anche sui mercati un timore, abbiamo visto la banca centrale giapponese oggi lasciare i tassi invariati e dire però che a dicembre finiranno un insieme di agevolazioni nate per garantire liquidità al sistema, la banca centrale norvegese ha rialzato i tassi, potrebbe esserci il timore che, insomma, a breve le banche tornino ad alzare i tassi di interesse? Esatto, infatti gli operatori segnalano anche tra gli elementi di nervosismo del mercato questa prospettiva, sono molti gli istituti centrali e anche la BCE che hanno fatto capire che, insomma, nei prossimi mesi si inizierà davvero a studiare, a mettere in atto un exit strategy della politica espansiva tenuta fin qui per contrastare la crisi, quindi ovviamente in una situazione di incertezza e di nervosismo come quello attuale i mercati vedono in questa lettura soltanto il lato negativo, cioè un rialzo dei tassi e quindi una stretta della disponibilità di finanziamenti, e quindi anche questo contribuisce a spingere al ribasso i listini. Allora, tra i titoli peggiori, perché insomma c'è un calo complessivo del mercato, per cui è inutile citare alcuni titoli, insomma, tipo Enel A2A meno 2,2, meno 2,9, hanno perso meno dell'indice, citiamo quelli che hanno perso più dell'indice, visto che il FTSE MIB ha perso il 3%. Dicevo, in assoluto il peggiore è Tiscali, meno 20%. Che è successo? Perché qua i risparmiatori iniziano a pensare all'ennesima fregatura. Prego. Tiscali oggi è l'ultimo giorno dell'aumento di capitale, da lunedì il titolo quoterà con anche tutte le azioni rivenienti dall'aumento di capitale regolarmente in circolazione, ed è accaduto quello che avevamo previsto in tutte queste settimane di aumento di capitale che sarebbe accaduto, e cioè il valore dell'azione alla fine si è praticamente allineato con quello che era indicato dai diritti sull'aumento di capitale durante l'aumento di capitale stesso, oggi ha chiuso sotto gli 0,19 euro l'azione di Tiscali con un calo del 19,58%, mentre ricordiamo che nel corso dell'aumento aveva toccato picchi ben superiori, anche a circa 0,5 euro. E alla fine dell'aumento ovviamente è tornata la calma, di fatto è tornata l'azione ad allinearsi al valore espresso dai diritti, quindi tenendo conto anche di tutte le nuove azioni emesse durante l'aumento di capitale, e l'azione è scivolata a questi livelli. Allora, su altri titoli abbiamo visto oggi Luxottica in calo anche dopo i conti, Eni in calo dopo i conti anch'essa, meno 3,81% più dell'indice per quello che riguarda Eni e meno 3,6% per quello che riguarda Luxottica, limitate le perdite di Pirelli, lì c'è un report positivo. Tra i migliori devo citare Parmalat più 0,80, Geox più 0,3 e anche Snam, Rete Gas meno 0,2, Terna meno 0,3, bene hanno fatto. Per quello che riguarda i bancari, volete sapere, Intesa San Paolo ha perso il 2,4%, Monte dei Paschi il 3%, Unicredit ha perso il 3,4%, miglior titolo in assoluto è Risanamento più 9,3%. Paolo, in una battuta, chiarissimo che i mercati temono che adesso tornino a essere stretti i cordoni e coi tassi di interesse, ma allora perché ieri molti di questi titoli hanno fatto un più 5%, o un più 4%, un più 3%? Beh, diciamo che ieri c'è un motivo molto contingente, tutti i mercati hanno seguito l'andamento di Wall Street dopo il dato sul PIL del terzo trimestre che è risultato migliore delle previsioni degli analisti, e quindi hanno preso occasione di questo dato per cercare di prendere posizione sui titoli che fino a quel momento erano più economici e quindi che potevano essere delle occasioni, e la borsa si è concentrata sul momento, però soltanto 24 ore dopo, quindi dopo quei rialzi, quindi con la possibilità di far scattare i realizzi, soprattutto dopo che alcuni dati, alcune prospettive sono tornate ad alimentare l'incertezza, la borsa è tornata in preda alla paura e ai timori, e quindi siamo tornati. Sì. Sì, Paolo, d'accordo con te, però insomma, non è che ieri euforici più 5%, oggi depressi meno 5%, il PIL americano resta quello di ieri e i dati di oggi non sono più sorprendenti. Voglio dire, o qui stiamo parlando di operatori ciclotimici che sono allegri la mattina e depressi la sera o viceversa, oppure resta la nostra domanda di fondo, con questo ti saluto e poi lascio la linea GR, ma cos'è questa crisi? Ve la facciamo risentire, Petrolini, visto che lo volete. Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Focus Economia. Le 18:10 inizia la seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Berrisoni, dopo aver commentato da un lato la proposta e il tema di cui si sta dibattendo qui a Capri nella prima giornata di lavori del convegno annuale dei giovani imprenditori e quindi l'importanza dell'area del Mediterraneo per le nostre imprese, per il nostro export. Ripeto, siamo diventati il primo partner commerciale del Maghreb, superando anche la Francia. Dopo aver parlato di riduzione delle tasse, sì, ma riduzione anche della spesa pubblica, e qui i dolori sono più forti perché vedo anche molti messaggi, ma insomma, chiaramente tagliare la spesa pubblica non avviene nonostante le dichiarazioni programmatiche quando sei in campagna elettorale. È aumentata, lo ripeto, chi ce lo chiede al 349-238-6666, negli ultimi anni di 3 punti percentuali quasi di PIL, che fanno circa a spanne 33-34 miliardi di euro come spesa corrente. Quella per interessi invece, per fortuna, con i tassi bassi è un po' scesa, ma i tassi prima o poi torneranno a salire. E poi abbiamo commentato, lo ricordo che si fosse messo in collegamento, la brutta giornata di borsa con mercati che abbiamo definito vagotonici, ciclotimici, meno 5% alcuni titoli mercoledì, più 5 gli stessi titoli ieri, meno 5 gli stessi titoli oggi. Adesso ci occupiamo sempre di finanza, anzi teniamo assieme la spesa pubblica degli enti, la spesa degli enti locali, se vogliamo, e le finanze degli enti locali con la finanza più estrema, quella dei derivati, perché c'è un nuovo rapporto della Banca d'Italia su quanti sono gli enti locali che hanno fatto ricorso a questi strumenti rischiosissimi, il cui utilizzo improprio ha generato la crisi finanziaria che ancora stiamo subendo. Eh sì, perché i derivati nati come strumento di copertura, cioè per di ricopertura nei confronti dei rischi, sono diventati invece con una polizza assicurativa oggetto di investimento massiccio vero e proprio, e siccome sono strumenti che derivano da qualcos'altro, non possiamo spiegarli adesso, ma insomma hanno un effetto leva, cioè investendo uno rischio 10 e quindi posso guadagnare 10 ma posso perdere 10, quindi questo effetto leva amplifica i guadagni, ma in questo caso nell'ultimo anno ha amplificato in maniera abnorme anche le perdite. E allora vediamo come sono messi i nostri enti locali con quanto a investimento nei derivati. Secondo le ultime rilevazioni del Ministero dell'Economia, sono aumentati gli enti locali che hanno fatto ricorso ai derivati. Qui c'è una piccola gabola contabile, perché in realtà è stato abbassato il livello di soldi, cioè, da 75.000 euro a 30.000 euro, il livello in cui un ente locale deve denunciare di avere investito in prodotti derivati, però insomma sono saliti ancora e a fine giugno sono ben 519 gli enti locali che hanno stipulato questo tipo di contratti anche nel 2009. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora Gianni, facci capire una cosa, ho capito che hanno abbassato la soglia per cui sono emersi nuovi derivati, ma non è un po' strano che nel 2009 siano aumentati gli enti locali, i comuni che hanno fatto ricorso a questi strumenti con quello che è successo per colpa anche di questi strumenti? Se stiamo parlando di 629 tra comuni, province e regioni, in portafoglio hanno contratti swap con un ammontare complessivo di 35 miliardi di euro, 17 miliardi le regioni, 3 miliardi e mezzo le province, 10 miliardi ci hanno i comuni capoluogo, 4 miliardi e 4 i comuni non capoluogo. Non è strano che aumentino anche in un anno come il 2009? Sì, allora, prima di tutto, come dicevi giustamente tu prima, qui c'è da considerare appunto questa piccola gabola del cambio di calcoli che ha permesso di far emergere ulteriori contratti che c'erano già prima ma non venivano registrati, perché in realtà il problema vero è che nessuno sa davvero bene quanti sono gli enti locali che hanno stipulato contratti derivati, perché anche il monitoraggio da parte del Ministero del Tesoro è stato avviato ed è andato avanti per anni come un monitoraggio sostanzialmente volontario, per cui molto spesso gli enti, soprattutto i più piccoli e così via, non mandavano la documentazione al Ministero del Tesoro e tutto avveniva allegramente in chiave locale senza che nessuno intervenisse. Per cui anche in questa situazione, con la possibilità di stipula dei derivati bloccata dalla finanziaria di Tremonti, continuano a emergere nuovi contratti che erano già in essere ma nessuno conosceva, perché appunto questo monitoraggio per anni è stato lasciato alla buona volontà o meno da parte degli enti locali di dire che avevano un derivato e anche di inviare i contratti al Ministero del Tesoro, perché tutto ciò è diventato obbligatorio solo in una seconda fase, solo da un anno e mezzo. Quello che è certo è che la montagna nozionale, come si dice, cioè di valore collegato a questi derivati, è ancora molto alta, anche se in questi mesi di appunto tassi bassi, come ricordavamo prima, alcuni allarmi che si erano accesi nei mesi scorsi si stanno un po' abbassando, ma visto che i tassi sono destinati a riprendere ovviamente prima o poi, perché sono ai minimi, e visto che molti enti sono impigliati in queste scommesse che durano fino al 2030-2035, questo abbassamento dell'allarme è una cosa temporanea e alla fine poco significativa. Chi può sta provando a cominciare a scappare dai contratti in cui si sono trovati incagliati, e in realtà nell'ultimo anno e mezzo 90 comuni hanno chiuso anticipatamente i contratti mettendosi d'accordo con la banca o con le banche che li avevano stipulati con loro, e sono riusciti a uscire con transazioni, in qualche caso con penali, ma meglio una penale piuttosto che un'ipoteca sul futuro. Vero è che tantissimi sono invece ancora impigliati in questo tipo di scommesse che nessuno sa come andranno a finire. Sono 629 almeno gli enti locali impigliati in questa cosa. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, un'ultima domanda per te Gianni Trovati, cioè se si sa già quali siano i comuni un po' più a rischio perché ne hanno comprati troppi, e a che punto è comunque invece l'interdizione da questi strumenti? Molti ascoltatori al 349-238-6666 dicono: ma scusate, ma perché un comune, anche non capoluogo, può permettersi di investire in strumenti così a rischio con i soldi, diciamo, del territorio? Lo facesse con altri soldi, ma insomma non l'ha ordinato mica il medico che il comune debba entrare nella finanza strutturata e in molti casi anche tossica. La risposta dopo le informazioni sul traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, ultima parte di Focus Economia. Gianni Trovatti, a che punto è l'idea di bloccare definitivamente i comuni, le province, le regioni dalla possibilità di sottoscrivere strumenti così delicati, rischiosi e che mi permettano i vari amministratori comunali spesso nemmeno capiscono? Ma ci dovremmo quasi essere, nel senso che il Ministero dell'Economia ha scritto un regolamento iper prudente che ora è stato sottoposto, vabbè, alla solita trafila, vaglio dei tecnici, correzioni possibili e quant'altro, però è appunto un regolamento che dovrebbe disciplinare il futuro della finanza locale su questo terreno, ed è un futuro che appare ispirato alla massima prudenza per fare un po' tornare l'utilizzo di questi strumenti a quello che, come ricordavi anche tu prima, doveva essere all'inizio, cioè solo di ricopertura del rischio. Quindi il Ministero dell'Economia è entrato nei dettagli a dire cosa si può e soprattutto cosa non si può più fare, e una volta trasformato, diciamo, una volta emanato questo regolamento, appunto, non dovrebbe più essere possibile rivedere gli scenari particolari che abbiamo visto in questi anni. Va detto però che le leggi c'erano anche prima, magari meno di dettaglio, magari meno puntuali, ma le leggi c'erano anche prima, impedivano tutta una serie di cose che invece abbiamo visto, come i contratti di diritto inglese stipulati da amministratori locali che si sono inventati esperti finanziari. Lasciamo stare, perché è venerdì e insomma la gente si sta sposando a casa, vuole fare un bel weekend, sennò li mandiamo a casa con la bile, perché insomma vedere gente che da comuni sperduti ha comprato Lehman e strumenti complicatissimi che spesso non capivano neanche a Wall Street, vabbè. Mentre la banca la capiva bene, insomma. Beh, la banca che la vendeva la capiva, esatto. Benissimo, capiva benissimo il margine di guadagno. Vabbè, grazie a Gianni Trovatti del Sole 24 Ore. Grazie a voi. E chiudiamo in maniera un po' più leggera, se si può dire, quindi allargando l'orizzonte non solo ai problemi dei comuni e degli enti locali e all'andamento di questa borsa più che deludente oggi, meno 3,1% il calo. Perché? Perché oggi l'Istituto Piepoli ha fatto un sondaggio, spesso parliamo di fiducia, fiducia verso il futuro, fiducia dei consumatori, degli investitori. Beh, ha fatto un sondaggio annuale tradizionale sugli enti, gli istituti che hanno più fiducia o che per gli italiani rappresentano il luogo, l'istituzione su cui avere maggior fiducia. E alcuni dati sono sorprendenti. Ci colleghiamo subito con Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto Sondaggistico Piepoli. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, come va la fiducia degli italiani nelle istituzioni, che è un tema anche economico, perché di fiducia c'è quanto mai bisogno in questo momento proprio nel cittadino consumatore e anche investitore? Al primo posto chi c'è? Al primo posto ci sono le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, ecco, tutta un'area, se vogliamo, di istituzioni che tutela la legge e l'ordine, e questo è molto, molto forte come fiducia dal punto di vista dell'italiano medio. Esattamente come un meno, ma altrettanto forte, c'è la Chiesa Cattolica, un'altra colonna portante istituzionale. La Chiesa Cattolica viene in un certo senso dopo le forze dell'ordine, prima delle forze dello Stato. Poi ci sono il Parlamento europeo, la Confindustria, la Banca d'Italia, la magistratura, il Parlamento, i sindacati. Questa è un po' la ventilazione dei potenti in termini di istituzioni. E la Confindustria ha un buon livello. Ecco, questo è un po' il panorama. Allora, se questo è il panorama a livello, diciamo, complessivo, la cosa che, insomma, le novità, non si può certo dire che siano novità le forze armate, da sempre carabinieri e polizia sono da sempre sono ai massimi livelli nella classifica della fiducia, anche la Chiesa Cattolica. Il Parlamento europeo sorprende già di più, perché spesso si è detto che gli italiani e gli europei in generale siano un po' scettici verso Bruxelles, e poi oggettivamente non perché siamo oggi in diretta dalla casa di Confindustria qui a Capri, ma la Confindustria al quarto posto, anch'essa è una sorpresa, anche perché supera la Banca d'Italia che viene al quinto posto. Domanda ovvia ma non scontata: la politica in senso stretto dove si colloca? Ah, bassa. La politica in senso stretto è, diciamo, è orientativamente allo stesso livello dei sindacati, all'ultima posizione. la gente non ama la politica o la rimuove in questo momento. La gente vuole delle persone al potere che o la difendano, come nel caso delle forze dell'ordine, o la difendano economicamente, come della Confindustria e della Banca d'Italia, o la difendano diciamo con la fede, come la Chiesa cattolica. Ecco, questa è un po' la ventilazione. Cercano difese. E questo è il tratto comune. È strano notare però che i sindacati, che insomma da sempre hanno un ruolo di rappresentanza di interessi simile a quello confindustriale, di due mondi chiaramente diversi, ma insomma che spesso dialogano tra di loro, è strano che i sindacati siano in posizione così bassa, addirittura dopo il Parlamento italiano. Dunque, i sindacati sono sempre stati bassi nel corso degli ultimi due anni. Direi che devono recuperare molte posizioni in termini di immaginario. Erano alti ai tempi di Di Vittorio, ma Di Vittorio è lontano, sono 40 anni fa, 50 anni fa. In questo momento sono bassi. Tenga conto che 40 anni fa noi facevamo sondaggi come oggi. All'epoca mi ricordo bene che i sindacati erano al secondo posto, dopo le forze dell'ordine. Poi mano a mano sono scesi, ma riprenderanno, perché le alterne vicende delle umane sorti fanno sì che chi è debole oggi possa essere forte domani e viceversa. Un'ultima domanda riguarda la fiducia nel Parlamento europeo, perché è nettamente più alta, terzo posto, sopra anche la Confindustria e sotto solo la Chiesa Cattolica, rispetto a quella del Parlamento italiano. Sembrerebbe quasi che l'italiano dica meno male che c'è l'Europa, perché mi fido molto di più di quello che viene deciso lì che non a Roma. Questo è il messaggio, cioè gli italiani si affidano più di altri paesi all'euro e all'Europa. C'è una grossa fiducia nell'euro e c'è una grossa fiducia nell'Europa. Direi che l'Europa per molti italiani rappresenta una madre più forte della madre Italia. E l'euro con essa? E l'euro con essa, sì. Beh, anche questo è importante, perché ricordiamo alcuni anni fa le polemiche sull'euro, polemiche soprattutto di una parte politica della Lega, che insomma arrivò addirittura a ventilare l'ipotesi di così un'uscita dall'euro. Meno male che l'euro c'è, potremmo dire, parafrasando un'altra frase, e meno male che ci ha difeso con questa crisi, almeno ha difeso i nostri risparmi. E poi evidentemente il dato sul Parlamento europeo e sull'euro la dice lunga, nonostante tutte le polemiche, in molti casi anche corrette, in quello che è stato il passaggio nel cambio lira-euro. Grazie al presidente dell'Istituto Piepoli, Nicola Piepoli. Grazie a lei. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia e anche per la settimana di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, a Paolo Corleoni qui in regia da Capri, Davide Cioccia per l'assistenza tecnica, da Sebastiano Berisoni a voi in ascolto un augurio di buon fine settimana. Noi ci risentiamo come sempre dalle 17 in poi lunedì. Radio 24, la passione si sente.